la si mi la puoi zuppeta mica fare voglio un m'avvicina e mentre caracuda di capucci me vorrà d'ammazzare di capucci me vorrà d'ammazzare. Mi innamorai, non si inaviti fare bella all'occhi tui, non si inaviti fare bella all'occhi tui. Donne non puoi faciti, ma donne non puoi faciti, donne non puoi faciti, meraviglia. Donne non puoi faciti di meraviglia. De meraviglia della riu tu quella riu là, si luca va giù mio e non mancia paglia, si luca va giù mio e non mancia paglia.